Ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Alessandro Benvenuti legge Metello di Vasco Pratolini. Sedeva al tavolo l'ingegner Badolati, tra le cataste d'assi e di mattoni, fuori lo sgabuzzino della direzione. Aveva i cappelli all'indietro, come al solito, e il tre quarti col bavero di pelliccia. Sul tavolo c'era acceso l'acetilene, tirava un po' di vento e la fiammella striggeva. Loro stavano a semicerchio davanti al tavolo, con le mani in tasca o le braccia conserte. Erano una trentina, due o tre manovali non ancora di leva, e il più vecchio di tutti, Renzoni, aveva lavorato sotto Giuseppe Poggi, alla mattonaia, 40 anni prima. In piedi, a fianco dell'ingegnere, c'era Maddì, il caporale, che faceva cenni d'assenso via via che il padrone parlava. Ora l'ingegnere diceva: «Io non avrei nessun dovere, ma siccome con la maggior parte di voi ci si conosce da un pezzo, vi voglio spiegare come sta la situazione. Lavori in vista non me ne mancano, ma col vento che fida...» Vedi, si interruppe accennando l'acetilene, «tra poco si spenge anche il carburo». Sollevò appena un mormorio, che avrebbe dovuto essere l'ilarità. Appoggiò i gomiti sul tavolo, congiunse le mani e riprese: «È una situazione complicata, ragazzi. Quando vado per stringere un contratto, sia la fondiaria, sia la magona, sia l'immobiliare, mi dicono che è meglio rimandare. Anche il nuovo stabilimento per Passigli, a cui si doveva mettere mano finito qui, è rimandato. Era tutto pronto, progetti, visti, bolli, le forniture di materiale assicurate, se non che Passigli ci vuol pensare su altri 6 mesi. Me l'ha fatto sapere l'altra mattina. Giudichiamoli come vogliamo, è gente che non vuol correre dei rischi. Sono rimasti scottati con Crispi, anche se ci hanno trovato il tornaconto, e ora vogliono vedere in faccia questi Dirudini e questi Pellù. Li hanno messi su loro e prima li vogliono pesare. Ma anche voi altri!» esclamò. «Dico voi altri per dire i socialisti. Tanto più o meno siete tutti della stessa tinta. Quelli che vi comandano fanno certe bischerate. Turati minaccia, Pescetti poi...» Qualcuno mormorò. Non si capì cosa né chi fosse stato. Egli si interruppe, poi chiese: «Cosa c'è? Sentiamo!» «Fuori chi ha parlato!» gridò Maddì. L'ingegnere lo riprese: «Calma, Maddì, calma. Hanno bene il diritto di parlare. Non gli sto mica dando la notizia di un aumento di salario.» Tirò fuori di tasca mezzo toscano e l'accese, sporgendosi sulla fiamma dell'acetilene. «Allora, ragazzi, avanti, su!» ripeté. Ma intervenne Renzoni, coi suoi capelli bianchi, la sua giacchetta corta, il fagottino sotto il braccio e la cicca spenta in mezzo alle labbra. «Vada avanti lei, ingegnere, vuoti in nappo!» Ora sì, si levò dal gruppo una distinta risata, che non di meno subito si spense. L'ingegnere continuò, ma dimenticandosi della digressione e tornando in argomento. «La mia opinione è che si tratti di una cosa passeggera. Malgrado il momento sia un po' scuro, c'è troppo risveglio per potersi fermare. Si va verso uno sviluppo industriale che non ne abbiamo nemmeno l'idea, e l'edilizia, per forza di cose, dovrà avere la sua parte. Forse è soltanto questione di mesi. Superato questo strizzone, le fornaci non ripareranno a cuocere mattoni. Ragion per cui, ragazzi, tra 5 o 6 settimane, magari poche alla volta, e vedrò di fare il possibile, ma vi dovrò licenziare. Se nel frattempo le cose si sistemano, meglio per tutti. Ho voluto avvisarvi in tempo, perché ci avete delle famiglie sulle spalle, e io la notte voglio dormire tranquillo. Ci si vede lunedì», concluse, e si alzò in piedi. Ma come si alzò lui, si alzò una voce dal gruppo dei muratori, distinta questa, appena un po' arrochita e precisa, che disse: «Bravo ingegnere, la dovrebbe fare il deputato lei con codesta parlantina!» Colui che aveva parlato, Quinto Pallesi, venne avanti qualche passo verso il tavolo. «Ingegnere, non sei mica offeso!» L'avrei a sapere di che panni vesti! Se tu non fossi l'anarchico che sei, a quest'ora, con la tua capacità, invece d'averti come muratore, ti avrei come concorrente! E forse ti chiederei di fare tutta una ditta!» L'aveva presa a braccetto. Erano adesso nel gruppo dei muratori, e in questa atmosfera creata dalla condiscendenza del padrone, le frasi aggressive e feroci che essi si scambiarono sembravano perdere la loro sanguinosità e acquistare il senso di una reciproca amichevole presa in giro. «La capacità», diceva Pallesi, «io l'ho tutta nelle mani, e nella zucca no? Soltanto la spendi male, anche se da un po' di tempo ti sei calmato, già. Ma mentre a lei basta un discorsino per andare a letto tranquillo, io non so come dormirei se fossi uno sfruttatore o un ladro pari suo.» I muratori attorno ridevano. Metello rideva, Renzoni rideva, lo stesso Maddì rideva. Ma proprio per questo, le parole in apparenza svelenite risuonavano nell'intimo di ciascuno di quegli uomini, cariche del loro più esatto significato. «Sì, buono Pallesi! Se non esistesse la gente come me, morireste tutti di fame. escluso te e qualche altra mosca bianca, il resto cosa siete? Cosa sapete fare? Tolti dal vostro lavoro, avete bisogno del poppatoio, non vi sapete togliere un dito dal sedere. Dica culo, che lo sa dire, quando durante il giorno lei sale sui ponti e le sembra che non si coli abbastanza sudore o che il freddo non ci abbia rotto le mani, perché non parla allora, pulito? Oh, bella, perché vi pago per sudare e non voglio essere messo in mezzo. Quanto vi durerà? Esclamò Pallesi. E lo so che tu ci vorresti mettere tutti al muro, o meglio una bomba sotto i piedi, ma vada, perfino al capo del governo c'è un generale, e del resto un tempo a Parigi stavano per mettere te al muro. Ora Pallesi cambiò voce, disse, questo è un tasto che non si deve toccare. Si erano tutti zittiti, e siccome passo passo erano arrivati dinanzi alla macelleria alla canova, a quella poca luce si potevano vedere i visi. Metello stava di fronte a Pallesi e lo guardava. Era come lo scoprisse soltanto allora, quest'anarchico sui 50 anni di cui tutti avevano grande considerazione e con il quale, non appartenendo alla sua squadra, i suoi rapporti si erano limitati al saluto. Bruno, dalle tempie brizzolate, ma forse la calcina, il viso segnato, un corpo esile, uno sguardo di bontà e di fuoco insieme dentro gli occhi neri. Gli ricordò Betto, ma un Betto giovanile, saldo, non ottenebrato dal vino. E attese, guardandolo un attimo, da quell'improvviso silenzio poteva nascere una rissa, una ben diversa discussione. Parlò Madì e disse, «Sei stato tu, Pallesi, a cominciare a mancare di rispetto all'ingegnere! Sta zitto te, talpa!» lo incenerì Pallesi. «Lascia parlare il padrone!» E subito l'ingegnere intervenne e disse, «Ragazzi, è sabato! Sapete cosa si fa? Vi offro da bere!» Era una canova. Poteva vendere vino soltanto a fiaschi, ma appunto dei fiaschi ne occorreva. E lo stesso si rimediarono 5 o 6 bicchieri sufficienti a fare il giro. L'ingegnere offerse per prima a Renzoni, siccome eri più vecchio. «Tieni il nappo!» gli disse. E queste parole bastarono a finir di disperdere la caligine. Poi alzò il bicchiere verso Pallesi, che ricambiò il suo gesto. Si sorridevano, ancora cordiali, ironici, a loro modo sfidandosi e portandosi stima. Uomini entrambi naturalmente più forti, intelligenti e iniziati rispetto agli altri che li circondavano. «Alla tua comune, Pallesi!» Al suo generale, ingegnere. Ma a chi fa la guerra? Al macinato? Dopo finito di vendemmiare, il padrone ci viene a trovare, con in mano la bacchetta, Santa Barbara Benedetta, con in mano il manganello, San Giuseppe e l'asinello. E si prende un accettino, benedetta San Savino, al padrone tocca scappare, giù per poggi fino in mare. Il padrone corre via, benedetta e così sia, così sia, così sarà, il padrone non vivrà, non vivrà nell'allegria, e ripeto così sia. E c'è un'alba, simile a mille altre che hai visto nel corso della tua vita, con la luce che è grigia e lentamente si schiara e si scolora, e dapprima è celeste, non rosa, e poi rosa. Quindi in un baleno, da dietro i poggi, sbuca il sole, e il cielo, investito da tanta luce, sembra scattare più in alto. Tutto quanto accade codesto giorno non potrà mai trapassare dalla memoria. È il giorno in cui, a nostra insaputa, la nostra vita si volta, come si volta sul palmo il dorso della mano. Quel lunedì, Metello si avviava verso il cantiere. Era l'alba e attraversava il ponte sul Mugnone, all'altezza del Romito. Istintivamente si voltò, e questa fu la sua impressione, come se, spuntando il sole, qualcosa che fino allora tratteneva il cielo, ne lo avesse liberato e precipitasse, zavorra di luce, diciamo, sulla terra. Un istante. Riprese il cammino. E dopo qualche passo se n'era dimenticato. Ma era un sole d'inverno. Presto lo seppellirono le nubi. Dalle cime di Monte Senari e dell'incontro gli corsero addosso grandi nuvole nere. E prima che i muratori potessero salire sui ponti, si scatenò il temporale. Durò forse mezz'ora, e il sole non riapparve. Cessata la pioggia, il cielo era adesso tutto bianco, compatto. Essi, via via che erano arrivati, avevano trovato riparo sotto la tettoia, dove erano conservati i sacchi di cemento, i telai delle finestre, i carrielli, le stoie. E in mezzo avevano acceso un fuoco. Così gli uomini delle diverse squadre che lavoravano ai due edifici ancora in costruzione si erano trovati tutti riuniti, come il sabato precedente. Non potevano non riprendere il discorso, anche se non c'era il padrone, anzi, a maggior ragione. Il vecchio Renzoni disse, qui, figlioli, se qualcuno non ci mette riparo, sa Dio dove va a finire. Pescetta ha ragione. A certa gente sembra non sia andata mai bene come ora. Nemmeno durante Firenze Capitale c'era tanto lusso. Per dirne una, ieri ero sui Lungarni e durante la passeggiata delle cascine non ho mai visto tanti landò. Come va allora, dico io, che il pane aumenta un giorno dopo l'altro, che aumenta tutto, e le nostre paghe restano le medesime di 10 anni fa? Se è per via del dazio, lo levino, o diano un po' del loro per risolvere la situazione. O vogliono che questi giovani che hanno famiglia vadano alla disperazione come quei poveri contadini giù nel tacco. Loro gli mandano i soldati e i carabinieri, sparano, legano, buttano in galera e credono di aver tutto bello e sistemato. Qui è questione di fame, è questione... Eppure, una maniera per farglielo capire, bisogna ci sia. O non s'accorgono che è nel loro interesse. Come quando si trattò di rizzare la statua della bilancia in piazza Santa Trinita, anzi la colonna, ora mi sbagliavo. Come gli disse quello? Più vino agli uomini e meno acqua alle corde. Cosa bisogna fare per metterglielo nella zucca? Turati alla camera, non gliele manda di dietro queste cose. Noi, presa alla gola, si cerca a volte di scioperare. Ma che, no, non la intendono. Cosa gli ci deve fare, eh? Quinto. Pallesi tritava tra pollice e indice la spuntatura di tabacco e caricava la pipa. E io lo so, è da un pezzo, e tu la mia opinione la conosci. Siete voi che non lo volete capire, come loro. Ma almeno loro fanno i loro interessi. Sarebbe a dire? Chiese Renzoni. Gli altri, zitti in cerchio attorno al fuoco, di fronte o di spalle, gli ascoltavano. Quinto accese la pipa e disse, stammi a sentire. Dianzi, appena sveglio, la mia donna ha preso a rappresentarmi il problema dei topi. Ci s'aveva un topo in casa che secondo lei non ci lasciava dormire. Aveva messo la trappola e tutte le volte il topo s'era mangiato anche il cacio. Mentre lei me ne parlava, la mia figliola le ha detto, mamma, l'ho sentito muovere, sposti il cassettone. Hanno spostato il cassettone e il topo è venuto fuori e la mia figliola con la granata l'ha fatto secco. Sarebbe a dire, ripeté Renzoni. Quinto sorrise. Aveva uno sguardo di bontà e di fuoco dentro gli occhi. Era un uomo già anziano e tuttavia sembrava un giovanotto che si burlasse, con non celata soddisfazione, di una persona in là con gli anni e lenta di cervello. Disse, è una parabola, no? Non sei mai stata ammessa? Tra poco non dubitare, legalitario oggi, legalitario domani, tuo Turati ti consiglierà anche questo. Ma né Renzoni, né nessuno degli altri poté interloquire. Era arrivato l'ingegnere e con lui era cessata la pioggia. «Su, ragazzi, su! È finito! Forza! Ricordatevi!» gridò Madì perché la sua voce arrivasse in ogni angolo della tettoia e del cantiere. «È scaduta mezz'ora!» «No, no!» intervenne l'ingegnere. «Consideriamola come lavorata. Cerchiamo di cominciare bene la settimana. Piuttosto ricordatevi che sabato si deve essere arrivata a coprire il tetto. Tempo permettendo!» disse Renzoni. «Non ci si capisce più nulla nemmeno con lui. Viene una bufera e poi schiarisce subito. Come d'estate. Sembra marzo e fa un gelo!» Metello si avviò con la sua squadra. Vide Pallesi che dava una spinta ma affettuosa al vecchio Renzoni. Lo vide di spalle mentre saliva a sua volta per la scala del fabbricato di rimpetto. Trascorsero così 2 ore. Saranno state le 10, le 10:15. Metello affondava la cazzuola nella calcina quando sentì un urlo che durò un baleno e fu sepolto dal tonfo di un corpo andato a schiacciarsi sulla massicciata. Quinto Pallesi era precipitato dall'impalcatura. Qualche minuto dopo l'avevano sollevato e portato sotto la tettoia, disteso su una porta, lo sorreggevano alla nuca. Il sangue gli colava di sotto l'attaccatura dei capelli e gli si spandeva sul viso. Non riparavano a tamponarlo. Il suo sguardo era sempre vivo, balenante. Più che di dolore, di collera sembrava. Respirava a fatica. Gli riunirono le gambe e dette un grido. Ansimava, diceva, «Mi è venuta a mancare la ringhiera. Non ho fatto in tempo a riprendermi». Adesso era Metello che, stando in ginocchio, gli teneva la testa e gli tamponava il sangue. Dall'altro lato c'era l'ingegnere. «No, no, non ce l'ho con lei», ansimava Quinto. «Non ce l'ho con nessuno. Il legno si era infradiciato, o la giuntura ha ceduto. Ero io che ci dovevo badare. La pelle è la mia». Digrignò i denti per il dolore, volse la testa e incontrò lo sguardo di Metello. Sembrò abbozzargli un sorriso. «Ha visto?» gli disse. «Non ci siamo mai conosciuti bene. Come mai?» ansimava. Le sue parole erano già diverse. «Se non avesse piovuto, sono anche scivolato. e con l'asciutto mi sarei agganciato. Si agitava. Portatemi all'ospedale, fate presto. E sono andato a chiamar la misericordia. Stai calmo, gli ripeteva l'ingegnere, che aveva la faccia color fango e pareva gli si inumidissero gli occhi. Andate anche a casa mia, subito, subito. Fateli venire tutta all'ospedale. Anche ragazzi, mi raccomando. Armanda, Ersilia e anche il bambino. Fate venire anche Carlo. Tutte e tre. La mamma e i due ragazzi. Armanda, Ersilia, Carlo. Armanda, Ersilia. Merda, legionerò. Ora già delirava. Da allora i giorni, anche se fatti d'attese che sembra non debbano mai finire, o di clamori, di patimenti, di segregazioni, di gioie che struggono il cuore, lo stesso si rincorrono. È la nostra vita che ha preso un altro andare. Metello conobbe Ersilia quando essa aveva ancora le trecce legate a cercine come un'educanda, e così gli occhi e il viso. Un velo nero su quei capelli neri al funerale del padre. Una bambina cresciuta presto. Le sottane alla caviglia le conferivano intera la sua altezza. Lei sorreggeva sua madre per il braccio e guardava il fratello, più ragazzo di lei, sui 15 anni. Era il novembre del 1897, un freddo, un gelo. Metello si ricordava col solino sotto il collo, il vestito della domenica e i cappelli in mano. Tirava un gran vento, le foglie sopravanzavano il corteo lungo i viali. C'era la bandiera nera degli anarchici e c'era, malgrado le lotte politiche li dividessero, il gagliardetto rosso dei socialisti e quello della Camera del Lavoro. Era un comunardo che si andava a seppellire, un muratore per il quale sul lavoro e nella vita tutti avevano sempre avuto e amicizia e considerazione. Ma quegli uomini pensavano più ad affrontare i soldati per via delle bandiere, si aspettavano di vederli sbucare di crocicchio in crocicchio, che non al morto, chiuso ormai nella sua bara in testa al corteo. Non era stato un gesto loro, non una provocazione di anarchici e socialisti, ma Quinto l'aveva chiesto dopo che era precipitato dall'impalcatura e prima di spirare all'ospedale. Portatemi via con le bandiere. Viva Cafiero! Poi aveva voluto i due figlioli al capezzale. Ricordatevi che io, vostra madre, è come se l'avessi sposata. E lei, Ersilia, lo so, babbo, erano le tue idee. E sembrava una bambina che ripetesse una lezione, ma anche una donna la quale tranquillizzava suo padre moribondo e mentalmente forse diceva una preghiera. Metella era vicina a quelle e te la guardava. La guardava camminare davanti a sé pochi passi nel corteo, quando, come ci si aspettava, risuonò uno squillo di tromba e sopraggiunse il plotone dei soldati. Volarono chepì e saltarono diversi gemelli dai solini. Fu sparata in aria una scarica di fucileria. Il carro funebre era scomparso, siccome la pariglia aveva preso la mano al cocchiere. L'indomani si seppe che il carro ha deburtato di fianco un omnibus a cavalli e la bara era rimasta scoperchiata al vento nel mezzo del viale. Dal tafferuglio le sole a uscirne intatte erano state le bandiere che gli alfieri, protetti dai compagni alla prima ondata, avevano messo in salvo sventolandole di lontano. Metello e qualcun altro dovettero trascorrere la notte in guardina. Il delegato a cui erano stati consegnati, e che non era un boia, mosche bianche, ma ce n'era, ce n'è sempre state, preferì non guardare negli schedari. Li rilasciò all'alba, in tempo perché chi aveva da lavorare non perdesse la giornata. Ersilia lo aspettava davanti al cantiere. Non era ancora sparita dalla massicciata la macchia di sangue lasciatavi da suo padre. Gli andò incontro e gli porse la mano. Grazie anche a lei per tutto e per la colletta. Come ho detto anche agli altri, l'ingegnere ci ha aggiunto di suo 100 lire. E così potete tirare avanti per quanto. Non era di già più una bambina, ora se ne accorgeva. Fosse o no il busto, le sporgeva il seno. Il suo sguardo era triste ma fiero. Speriamo fino a che son necessari, ella disse. Ebbe un sorriso che non contrastò per nulla col suo dolore. Ed egli dovè fare uno sforzo e ripetersi che essa era la figlia dell'anziano compagno morto sul lavoro, per non guardarli in un certo modo e non sviare la conversazione. Una brutta nottata in carbonaia? C'ero già stato un'altra volta. Non m'è riuscita nuova. in 3 anni di ferma che ho fatto da soldato ne ho macinata di cella. Ci hanno perfino lasciati lacci e le cinture. Ed ha suonata la campana. Madì lo chiamava. In fretta si salutarono. Presto Metello si sarebbe dimenticato persino il nome di Ersilia. Egli aveva sì la testa alla politica, tuttavia come sempre ce lo dovevano tirare le circostanze e ora la minaccia della disoccupazione, ma anche all'amore. Ne poteva dire di essersi impegnato appunto perché gli piaceva prendere e lasciare, una per cantonata. Aveva 25 anni, era un bel giovane operaio e non gli mancava la parlantina. Chiuso il cantiere del Romito con nemmeno mezzo toscano nel corso di una giornata. È una primavera in cui si incominciò e si lasciò in tronco un lavoro in Villa Magna. Quindi erano accaduti i moti di quel maggio del 98, ai quali, sempre così, pareva sempre tutto combinato. Metello si trovò in mezzo e ne avrebbe fatto volentieri a meno. Ma uscire di casa il martedì 6 e approvare chi gridava pane fu spontaneo, come spicca l'acqua dalla sorgente e le labbra pronunciano le parole. Dopo 3 mesi di disoccupazione e ripugnandogli l'idea di mettersi un'altra volta a lavorare da facchino, non più soltanto mezzo sigaro gli mancava, ma giusto anche per lui era questione di pane e di fitto arretrato, di debiti da pagare, di loggione per la Ida promesso alla fidanzata del momento, sempre che non lo animassero degli ideali. Poi, trovarsi in prima fila negli sconti di Piazza Vittorio venne di conseguenza. Sarebbe stato assurdo il contrario. Una colonna di dimostranti proveniente da San Frediano. C'era Gemignani in mezzo a loro, lo conosceva di vista, era un collega, si erano incontrati al funerale di Pallesi. L'aveva come rimorchiato. Costoro non seguivano una bara, era gente scalmanata, carica d'odio e di fame. L'ipotesi di uno scontro, più che temerla, la ignorava. Il corteo sbucò da via Strozzi, Metello c'era entrato in mezzo da qualche minuto appena e i militari uscirono di dietro il monumento al re galantuomo e di sotto i portici dove stavano acquartierati. Fu un parapiglia, egli non fece in tempo a roteare le braccia che un calcio di fucile gli calò sulla testa e lo stordì. Soltanto giorni e mesi dopo seppe come erano andate le cose a Milano e nel resto d'Italia, e che a Firenze c'erano state decine di feriti, 5 morti a Sesto, 1 a Ricorboli, 3 alle Caldine, 9 in tutto il giro dei colli che abbracciano la città. E come avevano preso lui, avevano preso del buono, avevano preso Turati, Pescetti no, malgrado la sua gamba matta, tenuto un comizio e buttato olio santo sul fuoco di quella disperazione, era scappato fino a Roma, rifugiandosi in Parlamento, poi gli riuscì di espatriare. Intanto Metello si trovava ammanettato, e questa volta non se la sarebbe cavata con una notte di guardina. I più li avevano chiusi alla fortezza da basso, lui e altri alle murate. La sera successiva all'arresto erano già stati condotti al carcere e ristretti nel camerone. Ci fu di certo come una tregua, un accordo tra le guardie e quelle donne che da ore vociavano dalla strada. Loro si arrampicavano a turno sulle sbarre del camerone. D'un tratto si fece silenzio e una delle donne gridò: «Arrestati di ieri! Ascoltatemi! Abbiamo ottenuto di potervi salutare una per volta! Ma voi non rispondete, se no ci mandano via con la forza! Non possiamo darvi nemmeno notizie di casa, se no dicono che c'è dell'intesa!» I prigionieri avevano fatto gruppo sotto le sbarre. Erano una trentina e la più parte l'uno all'altro sconosciuto. Si mordevano la lingua per trattenere il fiato e le parole. Incominciò, nel gran silenzio, la chiama. «Io sono la moglie di Monsani Federigo!» gridò la stessa voce. «Diteglielo se lui non ha sentito! Ghigo Monsani! Sua moglie lo saluta! Io sono la moglie di Baldinotti Armando! Baldinotti Armando, son la Gina!» gridò la seconda. E la terza: «Martini Pisacane, sono tua moglie Lidia! Gemignani Giannotto, sono Annita!» gridò la quarta. Nel camerone a ogni nome un agitarsi di teste. un improvviso vuoto nella calca perché l'uomo potesse arrampicarsi sulle sbarre, da dove tuttavia non si arrivava a vedere la strada, ma il tetto dirimpetto e le poche stelle in cielo. «Qui c'è una vecchia che non ha abbastanza voce!» tornò a gridare la moglie di Ghigo Monsani. «È la mamma di Pananti Sergio!» si interruppe. «Pananti! Pananti Sergio! Fa il fornaio!» Metello si teneva da un lato, siccome nessuno l'avrebbe chiamato, non certo la prussiana, che gli aveva sfuggito, non qualcuna delle sue belle, non Pia, non Garibalda, non Viola, nemmeno, non ci sperava. «Sono la moglie di Fioravanti, il tornitore! Fioravanti Giuseppe, il tornitore! Giulio! Giulio Corradi!» gridò una voce. Si sentì il pianto che la strozzava. «Sestilio! Sono Rosina!» «Pantiferi Omero! Sono la figliola di Pantiferi Omero! C'è anche la moglie che lo saluta!» Ora, tra i carcerati, alla sorpresa, al primo impeto di gioia, era succeduta una tensione nervosa. Resistevano sempre meno a lasciare senza risposta quei richiami. Si capiva che prima o poi qualcuno avrebbe ceduto. Già il grosso Monsani, rosso di pelo e con una taglia da Sansone, aveva dovuto intervenire di prepotenza, chiudendo la bocca di Corradi, il quale davvero non c'entrava con la rivoluzione, e da due giorni piangeva, le lacrime scendevano a bagnare i suoi onesti baffi di impiegato della prefettura. «Attraversavo piazza Goldoni per andare in ufficio e m'hanno preso! Non ho ancora 30 anni e la carriera rovinata! Il generale Sani mi conosce, ho uno zio capitano, nessuno mi crede!» ripeteva, né si rendeva conto che codeste benemerenze poco lo aiutavano ad affiatarsi nella convivenza tra cui si trovava. Tante teste ora, l'una accanto all'altra, voltate di fianco per tendere l'orecchio, tanti visi nella poca luce, visti di profilo e attenti, pronti a scattare su per le alte sbarre del camerone. «Sono ancora io, Antonietta Monsani! Parlo a nome della moglie di Lucarelli Egisto! Sta bene, ma per via degli anni non ce la fa coi polmoni!» Quindi, come anticipando il proprio turno, fu questa l'impressione, precipitosa si annunciò una giovane e chiara voce. «Salani Metello! Son Ersilia! Salani Metello! Son la figliola del Pallesi!» E subito dopo, uno scalpitare di cavalli, ordini bruschi sulla strada, intimidazioni, urla, invettive, gridi sui quali, potente, carica di collera e di offesa, dominò un attimo ancora la voce di Antonietta Monsani. «Carogne! Sbirri! Uomini! Hanno messo lo stato d'assedio! Ghigo, mi portan via anche me!» E come un'eco sola si innalzarono gli insulti, le bestemmie, le grida dal camerone, infine esploso con tutti i suoi uomini aggrappati alle sbarre. «Antonietta! Gina! Lidia! Rosina! Annita! Ersilia! Ersilia!» Finché, tornato il silenzio, sopito anche l'uggiolio del Corradi, notte alta, nel tanfo già spesso del camerone, forse Metello fu il solo a vegliare. Era l'alba, ed egli si diceva: «Esco e la sposo». Alessandro Benvenuti ha letto Metello di Vasco Pratolini. Regia di Francesca Zammarelli. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it